Il vertice dell'Islam. Al jihad. Ogni cosa ha un punto che sta più in alto di tutti gli altri suoi punti, e a questo punto vengono dati diversi nomi, come culmine, vetta, apice, sommità e vertice. Anche l'Islam ha il suo punto più alto, il suo culmine, la sua vetta, il suo apice, la sua sommità, il suo vertice. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, espresse questo concetto con una immagine familiare alle popolazioni nomadi d'Arabia. Il punto più alto della gobba che si erge sulla groppa del cammello. In un suo famosissimo dialogo pedagogico, nel quale l'interlocutore discepolo fu Muaz bin Jabal, dal quale proviene la tradizione, il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, usò l'espressione Zirwatu Sanam, in cui la parola araba Zirwatu significa il punto culminante e Assanam significa la gobba del cammello. Il vertice dell'Islam, come il punto culminante della gobba che si trova sulla groppa del cammello, e il punto più alto della gobba è il jihad. Al jihadu fi sabilillah è il punto più alto, il vertice dell'Islam. L'espressione al jihadu fi sabilillah significa lo sforzo nella causa di Allah. Ogni azione nella quale si esprime lo sforzo del musulmano per affermare il primato della parola di Allah rientra nella categoria di al-jihad. Dice Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, nel Corano, nella sura della fitta schiera: o voi che credete, volete che vi indichi un affare che vi scamperà da un castigo doloroso? L'affare è che voi crediate in Allah e nel suo apostolo e vi sforziate per il trionfo della causa di Allah con le vostre sostanze e con le vostre persone. Questo è il bene per voi, se almeno lo sapeste. Venne chiesto al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: nella scala dei valori dell'Islam, che cosa c'è nella posizione più alta? Rispose: la fede in Allah e nel suo apostolo. Venne chiesto ancora: e dopo cosa c'è? Rispose: lo sforzo, jihad, per il trionfo della causa di Allah. Venne chiesto ancora: e dopo cosa c'è? Rispose: un pellegrinaggio mabrur, cioè immune da difetti e pertanto accettato da Allah. Lo sforzo per affermare il primato della parola di Allah, proprio per il fatto di essere finalizzato a uno scopo nobile ed elevato, esclude per definizione, nel reticolo concettuale dell'Islam, che esso possa esprimersi in forme ignobili e abiette. Nell'ottica islamica, infatti, non c'è spazio per il principio «il fine giustifica i mezzi», secondo il quale è lecito ogni mezzo che sia utile al raggiungimento del fine, o in altre parole, è il raggiungimento del fine che rende giusto il mezzo usato per conseguirlo. Lo sforzo al jihad, per essere rilevante ai fini della salvezza dal fuoco, deve essere condotto secondo le regole dell'Islam. Le regole dell'Islam sono regole precise che governano il comportamento dell'uomo in ogni sfera della sua azione nel mondo, e perciò anche tutte quelle azioni per mezzo delle quali è lecito sforzarsi per il trionfo della causa di Allah. Non costituisce jihad ogni atto di terrorismo, di oppressione, di sopruso o di violenza, a prescindere dall'etichetta sbandierata dagli autori o appiccicata loro dai mass media, perché oppressione, sopruso e violenza non hanno spazio nel codice di vita dell'Islam e sono comportamenti vietati espressamente con energia. Sono quindi oggettivamente manipolazioni fraudolente della verità, perpetrate al fine di demonizzare l'Islam e i musulmani, diffondere diffidenza e paura, promuovere il razzismo xenofobo e fomentare odio di religione. I quotidiani collegamenti della parola jihad, tradotta impropriamente guerra santa, che è il punto più elevato dell'Islam, con la violenza e il terrorismo. È doveroso sottolineare e affermare con forza il concetto che chi è musulmano non è terrorista e chi è terrorista non è musulmano. E non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Terroristi ideologici e fomentatori di odio di religione sono semmai tutti coloro che associano nei loro discorsi l'idea di Islam e quella di terrorismo, associazione di idee che ha la stessa caratura razionale del concetto portato dalla frase cerchio triangolare o triangolo circolare. E la lode appartiene ad Allah, il Signore e padrone di tutti gli universi.